A proposito di esercizi violenti, dice Alf, siete stati all'incontro Keogh-Bennett? No, dice Joe. Ma han detto che chi mi intendo io ci ha buscato 100 guinee sane sane, dice Alf. Chi? Blazes, dice Joe. E dice Bloom. Quel che volevo dire del tennis, per esempio, è l'agilità e l'allenamento dell'occhio. Già, Blazes, dice Alf. Ha messo in giro la storia che Myler era ubriaco in permanenza per far salire la quotazione e lui invece s'allenava più non posso. Lo conosciamo, dice il cittadino, figlio di un traditore. Sappiamo come gli è entrato in tasca l'oro inglese. Ben detto, dice Joe. E Bloom si ficca in mezzo un'altra volta col tennis e la circolazione del sangue, chiedendo ad Alf: Non crede lei, Bergan? Myler gli ha fatto mordere la polvere, dice Alf. Heenan e Sayers si erano scambiati carezze a confronto. Gliele ha suonate di santa ragione. Bisognava vederlo, quel cazzerellino che non gli arrivava al bellico e il grosso che menava sventole a vuoto. Dio, gliene appioppò un ultimo allo stomaco. Gli fece vomitare anche quel che non aveva mangiato. Regolamenti Queensberry e il resto. È stato un incontro storico, formidabile, quello in cui Myler e Percy dovevano incrociare i guantoni per una borsa di 50 sovrane. Per quanto svantaggiato dalla inferiorità di peso, l'idolo di Dublino ha supplito con la sua consumata scienza del ring. La girandola finale è stata una durissima prova per tutti e due i campioni. Il sergente maggiore peso welter aveva visto il sangue nel precedente corpo a corpo, durante il quale Keogh aveva abbondantemente incassato destri e sinistri, mentre l'artigliere si lavorava sodo il naso dell'idolo e Myler sembrava ubriacato. Il soldato era partito con un poderoso sinistro al quale il prestigioso irlandese rispose con un diretto ben assestato alla mascella di Bennett. Il marmittone si accucciò, ma il dublinese lo agganciò con un sinistro, con un poderoso lavoro sul corpo. Ne seguì una mischia. Myler entrò subito in azione ed ebbe la meglio sull'altro, e il round terminò con il più grosso alle corde e Myler che gli dava una punizione. L'inglese, con l'occhio destro quasi chiuso, riparò nell'angolo, dove fu abbondantemente innaffiato, e alla campana tornò all'attacco, rinfrancato e aggressivo, sicuro di metter fuori combattimento il pugile blanista a passo di danza. Fu una lotta all'ultimo sangue per dare la vittoria al migliore. I due combattevano come tigri e il pubblico aveva la febbre per l'entusiasmo. L'arbitro richiamò due volte all'ordine Percy il picchiatore per agganci irregolari, ma l'idolo era astuto e il suo gioco di gambe era uno spettacolo in se stesso. Dopo un vivace scambio di cortesie, durante il quale un secco uppercut del militare fece uscire un fiotto di sangue dalla bocca dell'avversario, il beniamino si scatenò con una gragnuola di colpi sul suo uomo e piazzò un formidabile sinistro allo stomaco del battagliero Bennett, stendendolo secco. Fu un knockout di prim'ordine. Mentre tra la tensione del pubblico era in corso il conto per il picchiatore di Portobello, il secondo di Bennett, Ole Fotz Wettstein, gettò la spugna e il ragazzo di Santry fu dichiarato vincitore tra gli applausi frenetici del pubblico che scavalcò le corde e per poco non lo soffocò col suo entusiasmo. Li sa far bene i suoi affari, dice Alf. Dice che ora mette su una tournée di concerti nel nord. Sì, dice Joe. È vero, no? Chi? Dice Bloom. Ah, sì, è verissimo. Sì, una specie di tournée estiva, sa, una specie di vacanza. Mrs. B è la stella più fulgida della compagnia, no? Dice Joe. Mia moglie, dice Bloom. Sì, canta. Credo che sarà un successo per giunta. È un organizzatore d'eccezione. D'eccezione. Ah, per Diana faccio io, tra me faccio. Ecco spiegato il busillis e perché la lumaca ha le corna. Blazes si fa un assolo di piffero. Tournée di concerti. Il figlio di quel maiale di Dan, il mediatore di Island Bridge, che ha venduto 2 volte gli stessi cavalli al governo perché li mandasse contro i boeri. Vecchio checché. Vengo per la tassa dei poveri e quella dell'acqua, Mr. Boylan. Lei che? La tassa dell'acqua, Mr. Boylan. Lei che? Eccolo il caprone che te la organizza. Sta tranquillo. Resti tra noi, Ciccillo. Orgoglio della vetta rocciosa di Calpe, l'ebano crinita figlia di Tweedy. Là crebbe ella a ineguagliabile bellezza, dove di cachi e di mandorlo l'aereolezza. I giardini di Alameda ne sapevano il passo, gli oliveti sapevano e si inchinavano. La casta consorte di Leopold e Le, Marion dai generosi seni. Ora ecco, entrò un membro del clan degli Omoloi, un venusto eroe, bianco in volto, ancorché un poco acceso, consigliere di Sua Maestà, in legge addottrinato, e con lui il principe ed erede della nobile schiatta dei Lambert. Olà, Ned! Olà, Alf! Olà, Jack! Olà, Joe! Dio vi protegga, dice il cittadino. E altrettanto a lei, dice JJ. Che si prende, Ned? Mezza, dice Ned. Così JJ ordinò da bere. Fatta una capatina in tribunale? Dice Joe. Sì, dice JJ. Metterà tutto a posto, sai, Ned, dice lui. Si spera, dice Ned. Ma che stavano combinando quei due? JJ lo fa levare dalla lista dei giurati e l'altro gli dà una mano per cavarlo d'impiccio e il nome sullo Stubbs. Gioca a carte e se la fa con quei gagaroni d'alto bordo con la caramella all'occhio, a bere spumante, e poi dentro fino al collo in mezzo a sequestri e notifiche. Mette in gobbo l'orologio da Cummins a Francis Street, dove nessuno lo conosce, nel retrobottega quando c'ero anch'io, con Pisser che riscattava le scarpe. Come si chiama, signore? Dan, dice lui. Sì, un accidente, dico io. Per Diana, uno di questi giorni va a finire che vede il sole a scacchi, mi dà l'idea. Avete mica visto quel pazzo fottuto di Brin da queste parti? Dice Alf. S.U. Su. Sì, dice JJ. Cercava un poliziotto privato. E come? Dice Ned. E voleva andare diritto in tribunale. Fortuna che Corny Keller l'ha persuaso dicendogli di far vedere prima la scrittura a un perito. 10.000 sterline, dice Alf ridendo. Dio, cosa non pagherei per vederlo davanti ai giudici e ai giurati? Sei stato mica te, Alf, dice Joe. La verità, tutta la verità e nient'altro che la verità, nel nome di Jimmy Johnson. Io, dice Alf, smettila di infiorarmi la reputazione. Qualsiasi dichiarazione facciate, dice Joe, sarà usata come prova contro di voi. Si capisce che un'azione legale sarebbe ammissibile, dice JJ. Insinua che non è compos mentis. S.U. Su. Compos la faccia tua, dice Alf ridendo. Ma lo sai chi è Tocco? Guardagli la testa. Ma lo sai che certi giorni si deve ficcare il cappello in testa con un cordo da scarpe? Sì, dice JJ, ma la verità del contenuto della diffamazione non è una scusa per averla resa di pubblica ragione agli occhi della legge. Ah, caro Alf, dice Joe. Però, dice Bloom, per riguardo a quella poveretta, voglio dire, la moglie, è davvero da compatire, dice il cittadino. E con lei tutte quelle che sposano un uomo mezzo e mezzo. Come mezzo e mezzo? Dice Bloom. Vuol dire che lui? Mezzo e mezzo e basta, dice il cittadino. Uno che non è né carne né pesce. E neanche carne salata, dice Joe. Ecco cosa volevo dire, dice il cittadino. Un portento, non so se mi capite. Per Diana, si vedeva che l'aria cominciava a scaldarsi e Bloom spiegava che lui voleva dire che era terribile per la moglie dover sempre rincorrere quel rimbambito. È vera crudeltà contro gli animali lasciar quel fottuto morto di fame di Brin all'aria aperta con la barba che ci inciampa dentro a far venire la pioggia. E lei a naso ritto, dopo che l'aveva sposato, tutto perché un cugino del suo vecchio apriva l'inginocchiatoio al Papa. Un ritratto di lui al muro coi baffetti ritti da Rodomonte, il signor Brini di Summer Hill, l'italiano, zuavo papale del Santo Padre. Ha lasciato il lungo fiume e se n'è andato in Moss Street. Chi era poi, dite un po'? 1-0, due stanze e ingresso sul di dietro a 7 scellini la settimana. E andava in giro con mezzo chilo di patacche sul petto per impressionare la gente. E oltre a ciò, dice JJ, una cartolina è una pubblicazione. Fu ritenuta prova sufficiente di intenzione criminale nel caso Sed Grove Hall, che fa testo. A parer mio, un'azione legale sarebbe ammissibile. 6 scellini e 8 pence, prego. Chi ha chiesto il tuo parere? Lasciaci bere in pace le nostre pinte, per Diana, manco quello ci lascia fare. Beh, alla salute, Jack, dice Ned. Salute, Ned, dice JJ. Rieccolo, dice Joe. Dove? Dice Alf. E rieccotelo, per Diana, davanti alla porta, coi libri sotto il braccio e la moglie accanto, e Corny Keller con quell'occhio spento che sbirciava dentro nel passare, parlandogli come un padre, cercando di vendergli una bara di seconda mano. Come è andata a finire quella truffa del Canada? Dice Joe. Rinviata, dice JJ. Uno della compagnia dei Nasuti, che era conosciuto sotto il nome di James Vaux, alias Safiro, alias Spark e Spiro, mise un avviso sui giornali, dicendo che forniva un biglietto per il Canada per 20 scellini. Come? Che porto la sveglia al collo? Certo che era un fottuto imbroglio. Come? Tutti fregati, servette e tangheri della contea di Meath. E come? E anche qualcuno dei suoi c'è cascato. JJ ci diceva che c'era un vecchio israelita, un certo Zareschi o qualcosa di simile, che piangeva col cappello in testa nel banco dei testimoni, giurando per Mosè che c'era rimasto preso per 2 guinee. Chi dirigeva il dibattito? Dice Joe. Il presidente delle sessioni trimestrali, dice Ned. Povero vecchio Sir Frederick, dice Alf. Lo si mette nel sacco come si vuole. Un cuor d'oro, dice Ned. Raccontagli una storia pietosa di affitto non pagato e moglie malata e una caterva di bambini e parola mia, si scioglie in lacrime sul seggio presidenziale. Certo, dice Alf, Reuben J. ha avuto una fortuna fottuta l'altro giorno, che non l'ha schiaffato al fresco per aver citato quel poveretto di Gamley che fa il guardiano del cantiere comunale al Ponte Batte, e si mette a fare il verso al vecchio giudice, facendo finta di piangere. Un vero scandalo, questo povero lavoratore. Quanti figli? 10, avete detto? Sì, vostro onore. E mia moglie ha il tifo. E la moglie col tifo. Scandaloso. Lasciate la corte immediatamente, signore. No, signor mio, non firmerò nessuna ingiunzione di pagamento. Come osate, signore, presentarvi davanti a me e chiedermi una cosa simile? Un povero lavoratore industrioso. La causa è chiusa. Imperocché a di 16 del mese della dea dagli occhi bovini e nella terza settimana dopo il dì della festa della Santa Indivisibile Trinità, essendo la figlia dei cieli, la Vergine Luna, nel suo primo quarto, si dette che quei dotti giudici ripararono nel tempio della legge. Ivi maestro Courtney, sedendo nella propria stanza, dava il suo parere e il giudice maestro Andrews, sedendo senza giuria nella corte probata, ben soppesava e ponderava la richiesta del primo attore rispetto ai beni nell'oggetto del testamento in questione e della disposizione testamentaria finale in re, la proprietà reale e personale del compianto Jacob Halliday, mercante di vini, defunto, contro Livingstone, minorenne, Minus habens e socio, e alla solenne corte di Green Street sen venne Sir Frederick il falconiero. Essa s'assise, l'appresso, alla quinta ora per ministrare la legge dei giudici antichi alla commissione speciale per tutte e ciascuna di quelle parti contenute dipendenti dalla contea della città di Dublino. E con lui sedeva l'alto sinedrio delle 12 tribù di Iar, per ogni tribù un uomo, della tribù di Patrick e della tribù di Hug, e della tribù di Awan e della tribù di Con e della tribù di Oscar e della tribù di Fergus e della tribù di Finn e della tribù di Dermot e della tribù di Cormac e della tribù di Kevin e della tribù di Caolte e della tribù di Ossian, essendo ivi riuniti 12 uomini probi e senza macchia. Ed egli scongiurò per colui che morì sulla croce di voler esaminare rettamente e secondo coscienza e di far retta deliberazione nella questione pendente tra il loro signore sovrano, sua maestà il re, e l'imputato alla sbarra, ed emettere un giusto verdetto in base alle prove. Così li aiuti Dio e baciate il santo libro. E coloro si alzarono dai loro seggi, i 12 di Iar, e giurarono in nome di colui che è dai secoli dei secoli di agire secondo la sua giustizia. E immantinente i ministri della legge fecero uscire dai penetrali della torre un uomo che i veltri della giustizia avevano arrestato in conseguenza di informazione ricevuta, e gli misero i ferri alle mani e ai piedi, e non vollero accettare né cauzione né malleveria, bensì pronunciarono accusa contro di lui, poiché egli era un malfattore. Bei tipi quelli là, dice il cittadino, vengono qui in Irlanda a riempirci di cimici. Così Blum fa finta di non sentire e attacca a parlare con Joe, dicendogli di non preoccuparsi per quella cosuccia fino al primo, ma se avesse voluto dire una parolina a Mr. Crawford. E Joe a giurare per tutti i santi e per questo e per quello che avrebbe fatto il diavolo per lui. Perché vede, dice Blum, per un annuncio ci vogliono parecchi rinnovi assicurati. Il segreto è tutto lì. Si fidi di me, dice Joe. Truffano i contadini, dice il cittadino, e i poveri dell'Irlanda. Non vogliamo più stranieri in casa nostra. Oh, sono sicuro che andrà benissimo, Heinz, dice Blum. È solo quella storia del Chies, capisce? Consideri già tutto sistemato, dice Joe. Molto gentile, dice Blum. Stranieri, dice il cittadino. È colpa nostra, li abbiamo lasciati entrare. Siamo noi che ce li abbiamo portati. L'adultera e il suo drudo hanno portato qua i grassatori sassoni. Verdetto interlocutorio, dice JJ. E Blum, a far finta di essere tutto assorto in nulla, in una ragnatela nell'angolo dietro alla botte, e il cittadino a fargli il muso duro e il cagnaccio ai piedi che guardava su per sapere chi doveva mordere e quando. Una moglie disonorata, dice il cittadino. Ecco la causa di tutti i nostri mali. Eccola qua, dice Alf, che sghignazzava insieme a Terry sulla Police Gazette spiegata sul banco, armi e bagagli. Fa dare un'occhiata, faccio io.